Si farà un incontro Renzi-Conte, forse ci sono i responsabili, forse no, forse un nuovo governo, forse no. Ci siamo tutti un po' stancati, a dire il vero. Per fortuna che arriva il fine settimana, nel quale entriamo però con la notizia del primo contagiato in Lombardia dal coronavirus. Era stato a cena con dei colleghi appena tornati dalla Cina a fine gennaio. Non proprio rassicurante, ci sembra. A Bruxelles va in scena uno scontro feroce sul bilancio europeo, con l'Italia e altri che chiedono più risorse. A Berlino ci si interroga sulla strage compiuta da un terrorista xenofobo ad Hanau. A Roma la Cassazione conferma il no all'arresto di Carola Rackete, capitana della Sea-Watch, che entrò a Lampedusa senza autorizzazione, con decine di migranti a bordo. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Alle 6, 32 minuti e 34 secondi di questo venerdì 21 febbraio inizia l'ultima puntata della settimana di 24 Mattino con Carmelo Lauricelli in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione. E con voi, ovviamente, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, buongiorno. Con voi che ci potete scrivere al 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, soprattutto WhatsApp audio, la vostra voce che ci fa piacere sentire. Ci trovate anche su Instagram, naturalmente. Ci trovate su Twitter, come ben sapete, 24 Mattino, e poi su Facebook. Spezia, ti vedo, ti sento, occhio a quello che dici. Sì, sì, su Facebook ci potete anche vedere se volete. Va bene, va bene. Renzi e Conte si incontrano con quale arma, chiede un ascoltatore. E già ci immaginiamo il duello loro, schiena contro schiena, contate 10 passi. Chissà, chissà. Lo incontro, dice Renzi, per finire il teatrino. In queste settimane noi siamo stati gli argini del buonsenso, i guardiani del buonsenso, i garanti del buonsenso. Lo continueremo a fare nei prossimi mesi, sia che stiamo in maggioranza, sia che stiamo all'opposizione. La settimana prossima conto che possiamo finalmente mettere la parola fine a questo teatrino. Sono disponibile, dice il Presidente del Consiglio. Ha chiesto un incontro e ovviamente ho già risposto che sono ben disponibile, la mia porta è sempre stata aperta e sarà sempre aperta, quindi sicuramente ci vedremo la settimana prossima. E aggiunge, non cerco altre maggioranze, no, figuriamoci. Il Presidente Conte lavora al governo, è passato, ha chiesto la fiducia in Parlamento con un determinato assetto e determinate forze e gruppi. Quindi non sarebbe assolutamente improprio che io mi cercassi altre maggioranze. In realtà le voci che si rincorrono sono tutte, iniziano ad essere un po' troppo concrete, però per carità, per carità. Cara Agnese Pini, direttrice della Nazione, come stai, Agnese? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Bentornata, buongiorno. Bentornata. Grazie. Anche tu ne hai le scatole piene? Perché io non ne posso proprio più, sinceramente. Parli del governo, del teatrino. Sì, del famoso teatrino, insomma. Il famoso teatrino dove sono tutti per i miei attori, comunque, perché tutti partecipano in qual misura ad alimentare questo teatrino evocato da Renzi, insomma. Nessuno escluso, direi. Ma direi che questo incontro tra Conte e Renzi è il primo atto senza ipocrisie, forse, degli ultimi mesi di schermaglio dei teatrini, perché effettivamente le forze che compongono questo governo lo hanno reso ormai decisamente logoro, soprattutto a suon di colpi bassi sulle pagine dei giornali o nei talk in TV. Più che nelle aule, insomma. Sì, che poi, esatto, c'è anche questo tema del delirio comunicativo, no? Per cui ogni volta bisogna alzare l'asticella, spostarla un po' più in là, e quindi inevitabilmente poi la politica si nutre anche di comunicazione, se vogliamo anche di quello che stiamo dicendo noi adesso in questo momento, no? Con tutti questi... Forse un po' troppo in questa fase di delirio comunicativo, mi sembra il termine... più appropriato, perché da sempre la politica appunto è fatta anche di parole, di comunicazione, certo. Soprattutto di questo, però la differenza tra i fatti, le azioni e le parole spese in questi ultimi mesi è forse non è mai stata così forte. A questo punto davvero rende a volte insopportabile determinate uscite o determinate polemiche alimentate. Sembra proprio ad hoc per perdere solo altro tempo. Questa è un po' la sensazione. Allora, nei giorni scorsi abbiamo parlato dei tavoli sull'agenda 2023. Sono i tavoli, no? Che il governo riunisce per discutere appunto di quali possono essere le proposte per arrivare, per il prosieguo della legislatura. E quindi un po' quelli che dovrebbero essere le cose concrete. Abbiamo notato una moltiplicazione dei tavoli, perché dal tavolo principale poi ne derivano altri 5, dai quali ne deriva qualche altro, e su ogni singolo argomento poi si discute. Ci scrive un ascoltatore: Simone, domando, ma di tutti questi tavoli, le sedie chi le porta? Ma soprattutto chiedo io, quante sedie ci devono essere a questi tavoli? Insomma, il tema è proprio questo, arrivare un po', no, a un minimo di concretezza. Ieri vi voglio segnalare un'intervista interessante, perché è stata l'intervista realizzata da Corrado Formigli al sindaco di Milano, Beppe Sala, che da molti viene rappresentato come un modello, no, per il centro-sinistra, e dice una frase a un certo punto che quasi, se posso, una frase da rottamatore per il Partito Democratico, perché dice: allora, Zingaretti vuole allargare il PD, lo vuole aprire alle sardine, ai sindaci, però se bisogna creare spazio... È come se fosse una formula matematica o fisica. Cioè, se tu vuoi al tuo interno i sindaci, le sardine, la società civile, se li vuoi far entrare, qualcuno si sposta, perché non è che si proliferano ruoli. Niente male, Beppe Sala. Sul Partito Democratico parla anche di immigrazione Sala, dice: ne abbiamo bisogno, occhio che a Milano c'è il doppio dell'immigrazione, anzi più del doppio dell'immigrazione che nel resto del paese, eppure funziona bene, no? Una Lega che evoca mettiamo bambini nelle culle, ma dopodiché questo porta a un rifiuto verso l'immigrazione, è difficile. Ma guardi, a Milano, diciamo anche questa semplice verità, a Milano noi abbiamo il 20% di immigrati e l'Italia ne ha il 9%. Milano funziona, scusate, più dell'Italia. Dice, così è, ragazzi. Insomma, a dire il tema non è quello. Allora, a proposito di immigrazione, Agnese, ti voglio portare sul tuo territorio, perché di questa mattina abbiamo la notizia di quest'uomo di 38 anni, lo abbiamo raccontato, che... In Lombardia è ricoverato in terapia intensiva, ha contratto il coronavirus, anzi Covid-19, l'ha contratto mentre era a cena a fine gennaio con dei suoi colleghi appena tornati dalla Cina, il che, se mi permettete, senza sparger panico per carità, però non è particolarmente rassicurante, perché non sappiamo questi colleghi chi siano, dove si trovino e che abbiano fatto dalla fine di gennaio ad oggi. E quindi questo è un punto da tenere presente, ovviamente. Senza spargere il panico, però un filo di attenzione bisogna tenerlo. Detto ciò, cara Agnese, voi vi trovate in una situazione particolare, no? Nei territori del tuo quotidiano, della Nazione, perché ci sono queste centinaia di cittadini, in parte italiani, in parte cinesi, tornati dalla Cina in questi giorni. Quanti sono? 2000? Quanti sono, Agnese? Più o meno sì. Il numero è giusto, anche perché non è quantificabile al millimetro Il vaccino è questo, insomma, un paio di migliaia di persone che stanno tornando, devono tornare. La grande assenza dovuta al Capodanno cinese qui alle porte di Firenze, Prato, esiste, lo ricordo, la comunità cinese più ampia d'Europa, quindi è effettivamente un vaccino indicativo rispetto alla popolazione cinese in Italia, fatta da molti regolari ma anche moltissimi irregolari, quindi da un ampio numero di invisibili e non contabili, quindi anche rispetto a un'eventuale problematica sanitaria, cioè da tener conto di questo aspetto non indifferente, non secondario. Qui è stato appena inaugurato, diciamo, un ambulatorio, chiamiamolo così, di prevenzione al possibile contagio da coronavirus, che è una novità abbastanza assoluta nel panorama nazionale per come è stato concepito, ma che non ha mancato anche di creare tutta una serie di problematiche e di polemiche che sono anche uscite ovviamente dai confini regionali rispetto, certo. Esatto, rispetto a quarantene obbligatorie o meno, no? C'è stata tutta una diatriba tra la politica e la comunità scientifica, con Burioni in testa, ricordiamo il medico diventato famoso per la battaglia anti-Novax, sì, sì, sulla sì. necessità o meno di imporre una quarantena obbligatoria a chi ritorna. Sì. Tra l'altro Agnese, mi sembra di aver capito, e l'abbiamo letto ieri spesso, che in realtà la comunità cinese si sta automettendo in quarantena, cioè si stanno chiudendo in casa per 14 giorni, una volta tornati dalla Cina, facendosi aiutare dagli amici che gli portano, gli depositano la spesa davanti a casa, quindi con grande responsabilità. Benvenuto, buongiorno a Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, grazie per essersi svegliato per noi, De Magistris, eccoci. Buongiorno, mi sveglio sempre a quest'ora, grazie. No, perché De Magistris non dorme, riflette sui destini della città, lo sappiamo. Un pochino dormo pure io, siamo umani tutti. Allora, De Magistris, senta una cosa, tra un attimo la porto sull'abbattimento della vela verde di Scampia, un momento importante per la città, importantissimo sicuramente, però un elemento, ne stiamo parlando con Agnese Pini, direttrice della Nazione, che è ancora qua in linea con noi, intanto gliela presento, vi conoscete? No, non vi conoscete. Buongiorno. Eccoci qua. Un po' su tutte le beghe politiche di queste ore, De Magistris, su una sua parola, come finisce? A livello nazionale, secondo me, finisce che troveranno comunque un accordo, perché non si va a votare prima. Io questo lo penso, perché nessuno ha interesse ad andare a votare prima nel 2022. L'elezione del Presidente della Repubblica. Penso invece che dopo le regionali ci sarà un nuovo governo, quindi ci sarà un riassestamento degli equilibri all'interno della maggioranza e si andrà poi avanti, sicuramente fino al 2022, ma penso fino alla fine della legislatura. Il momento sono le regionali, quindi, De Magistris. In sì, le regionali saranno un momento importante, perché si vota in diverse regioni e lì poi ci potrà essere. Tra l'altro anche da voi, De Magistris. Sì, anche da noi. Immagino che lei De Luca non lo sosterrà mai nella vita. Ma ovviamente non per un fatto personale, ma per un fatto politico, sicuramente non lo sosterremo mai. Traffico e poi andiamo alla vela di Scampia, eh. Mattino. Ed eccoci dunque con insomma questo inizio in realtà dell'abbattimento della vela di Scampia, di questa ultima vela di Scampia, anzi non l'ultima, la penultima, perché una rimarrà in piedi, De Magistris, se ho capito bene, no? Sì, sì, rimane in piedi alla fine una sola, che verrà riqualificata e destinataria di una parte importante di uffici pubblici. Allora, la storia qual è? Molto brevemente, poi De Magistris, che ovviamente ne sa il triplo di me, mi correggerà eventualmente. Questo quartiere nasce tra gli anni 60 e gli anni 70, tra l'inizio degli anni 60 e la metà degli anni 70. ed è un quartiere che doveva diventare un quartiere modello sostanzialmente. È uno dei tanti progetti urbanistici, quello di Napoli non è il solo, però forse uno dei più noti, uno dei tanti progetti urbanistici fatti in quel periodo nelle nostre città per creare il quartiere ideale, no? Il luogo nel quale le persone avrebbero vissuto nella maniera migliore possibile. E come spesso accaduto nel nostro paese, chiunque viva in una città, grande o piccola, grande o media che sia, sa che è successo praticamente dappertutto. Puntualmente questi luoghi, o quasi puntualmente, sono diventati dei luoghi di degrado per un motivo o per l'altro. Là De Magistris giocò anche il terremoto, molti sfollati che si spostarono là, e la situazione di degrado si approfondì fino ad arrivare a un luogo nel quale sostanzialmente per un certo periodo di tempo non entrava nemmeno la polizia, o quasi, no? Sì, la sua analisi sintetica è più o meno corretta. Doveva essere un qualcosa di avanguardia, no? Già il termine vile lascia intendere un qualcosa di bello, invece purtroppo poi è diventato un luogo di degrado in cui la politica si faceva vedere solo durante le campagne elettorali. Poi c'è stato anche un periodo importante di crimine in tutta la zona, diciamo, nord di Napoli, e poi anche quel marchio pesantissimo, vile uguale Gomorra. Invece le posso dire, se posso sinteticamente, che in questi anni io ho conosciuto tutt'altra realtà, cominciando nel 2011, sono andato molte volte a Revere, avrò incontrato non meno di 60-70 volte il comitato di Revere. Là la gran parte della gente ci ha dato una lezione di umanità, che gente che è vissuta per anni in un contesto di degrado assoluto, dove la luce andava e veniva, le fogne più o meno non c'erano, insomma un degrado davvero pesante, come siamo abituati a vedere in diverse periferie d'Italia. Questa gente ha lottato, ha trasformato la rabbia in partecipazione e indignazione, e poi ha trovato in noi un'amministrazione che insieme a loro ha costruito un processo partecipativo, e siamo arrivati al progetto Restart Scampia, che non è solo abbattimento delle vele, attenzione, è abbattimento e riqualificazione. Quindi là, una volta abbattuti, ci saranno asili nido, scuole, impianti sportivi, infrastrutture. Quindi noi puntiamo a farlo diventare una nuova centralità, cioè quello che forse qualcuno aveva ipotizzato, come diceva lei giustamente, sì, negli anni 60. Cioè riportarlo a quella che era l'idea iniziale, appunto, di quell'area di Napoli. Questa sarebbe l'idea. Con quanti e quali soldi, De Magistris? Allora, i soldi, più o meno tutta l'operazione si va intorno ai 100 milioni di euro, è andata a step. Cioè una parte di denari servono per l'abbattimento di tutte le vele residue, più una che va riqualificata, e poi c'è la parte più importante, che è quella della rigenerazione urbana. Si chiama bando per le periferie, un bando che è stato poi concluso dal governo Gentiloni, un bando importante, e la novità assoluta di Napoli è questa, che la firma del progetto Restart Scampia ha tre firme, e questo dall'idea della democrazia dal basso: il comitato vele, che sarebbero gli abitanti delle vele, l'Università di Napoli Federico II col Dipartimento di Architettura, e l'amministrazione con la mia firma. Quindi questo è stato un processo voluto dagli abitanti, perché noi abbiamo chiesto: ma voi volete la riqualificazione di tutte le vele o l'abbattimento? E loro volevano l'abbattimento, perché era diventato questo simbolo di degrado, con l'ulteriore onta di farlo diventare un'equazione con Camorra e Gomorra, e questo è, per loro giustamente, era qualcosa di inaccettabile. Di devastante anche per una comunità. Sì. Abbiamo ancora 2-3 minuti, vorrei coinvolgere sia Agnese Pini sia Luigi De Magistris su quest'ultima cosa. Carmelo Lauricella, ci porti ad Hanau per gentilezza? Mamma, quando ne sono? Non mi vedono! Mamma, sono assai! Allora, è un audio in italiano, no? Che arriva da là, però, arriva da là dove ieri c'è stata questa strage in due caffetterie turche, 11 le vittime complessivamente, e quest'uomo, questo chiaramente un folle, ma chiaramente anche un terrorista xenofobo, perché queste cose vanno dette con una certa chiarezza, che ha ucciso appunto 11 persone in due caffetterie di proprietà di turchi, con un'idea di fondo: queste persone nel nostro paese non ci devono stare, la politica non le spelle, non le manda via, e quindi le ammazzo io. Questo è stato un po' il concetto. De Magistris e poi Agnese Pini, anche su questo fatichiamo molto, vedo molta fatica, non solo in ambienti del centrodestra o della destra, vedo molta fatica a definire atti di questo genere terrorismo. Invece condivido in pieno quello che ha detto lei, quando si alimenta una politica xenofoba e razzista, non è detto che quello che fa la politica razzista vuole l'atto violento, ma scateni una serie di effetti collaterali spesso nemmeno che riesci a rendertene conto tu, perché vai a toccare istinti, devianze psicologiche, addirittura psichiatriche, perché parliamo di un pazzo criminale, ovviamente, chi fa una cosa di questo con una impronta di natura terroristica, cioè chi fa una cosa di quella è politica del terrore e si fonda sulla propaganda xenofoba. Ormai in Europa abbiamo partiti che formano il loro consenso sul nemico del giorno, anche in Italia, quindi questo è pericolosissimo. E guardate i dati statistici del Ministero dell'Interno, ormai ogni giorno una fetta importante dei reati in Italia hanno uno sfondo razzista o comunque fortemente discriminatorio. Agnese Pini, che dici? Che la prima tentazione, purtroppo anche della politica, quando accadono fatti di questo tipo, anche meno sferati di questo, ma che hanno magari uno sfondo appunto razzista, xenofobo, e riguardano e hanno come protagonista uno di noi, cioè appunto lo straniero venuto da fuori, eccetera. La prima tentazione è quella di parlare di un caso isolato, di un folle. È ovvio però che anche la follia si alimenta e germoglia con un terreno che viene alimentato lungamente da anche una politica a volte sbagliata, che non dice chiaramente quello che è giusto o quello che è sbagliato fare, e che quindi lascia intendere che certe derive o certi pensieri che hanno come sfondo, come sottofondo il razzismo, siano tollerabili. Questo chiaramente messo nelle mani, nella testa di una persona evidentemente disturbata, come nel caso tedesco, può portare a delle degenerazioni atroci come quella che abbiamo visto ieri. Ma c'è una responsabilità collettiva che va sempre tenuta di conto, perché altrimenti si perde di vista il punto centrale della questione. De Magistris, a chiudere, qualche ascoltatore ci chiede, così la inchiodiamo ai tempi, sul tornando alle vele, ci dà i tempi di questa riqualificazione? Guardi, sono troppo esperto per capire, i tempi in Italia dipendono da troppe cose. Quello che le posso dire è che c'è certezza dei finanziamenti economici, e questa è la cosa più importante. Volontà di tutti di fare prestissimo, questa vela nel giro di 30-40 giorni va giù e subito dopo si parte con l'allocazione degli altri abitanti delle altre vele negli alloggi popolari che vanno realizzati. Io credo che ci vuole qualche anno, però un'altra notizia al volo la voglio dare. A settembre, sempre a Scampia, aprono i corsi di scienze infermieristiche dell'università che abbiamo lì realizzato, un altro segnale importante. Grazie Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, e Agnese Pini, direttrice della Nazione, GR24. Ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa con Paolo Mieli. A tra poco.